in primo piano. Venerdì 22 ottobre, rifiuti, rifiuti, rifiuti. Le aperture dei giornali sono quasi tutte concentrate sulla situazione di Napoli, che poi vedremo nella seconda parte di rassegna stampa. Gli unici giornali che aprono in modo diverso: Il Sole 24 Ore, la Germania corre con l'euro, la ripresa tedesca spinge la moneta a 1,40 dollari. Per il Corriere della Sera, che mette comunque rifiuto in prima pagina, si apre un nuovo caso Rai, vale a dire la citazione per danni di Berlusconi al report della Gabanelli. E Saviano in Rai, ecco il contratto, questa è l'apertura di Libero. Per il resto rifiuti, per l'appunto. Ma io dovrei restituire oggi il premio Camomilla a colazione, lo vorrei dare a due personaggi che troviamo sui giornali. Uno è il sindaco di Castellammare, Luigi Bobbio, del PDL, che troviamo a pagina 31 di Repubblica. Ha fatto un'ordinanza: multe per minigonne e scollature. È un ex magistrato, è un magistrato che già se l'era presa con i parcheggiatori abusivi, che alle multe aveva dato ai parcheggiatori abusivi, invece che le multe, 3 mesi di galera sicuri. E ora il sindaco di Castellammare, Luigi Bobbio, definito da molti il moralizzatore, ha fatto un'ordinanza con la quale verrà stabilito che è vietato giocare a pallone, aggirarsi, sostare, sdraiarsi in costume da bagno, camminare a torso nudo. E poi basta abiti succinti, minigonne, maglie e camicie scollate. La crociata del sindaco di Castellammare: multe per minigonne e scollature. Lo trovate a pagina 31 di Repubblica, ma anche La Stampa vi dedica mezza pagina. Ma poi soprattutto, come non dare il premio Camomilla al signor Gino Volta, barista sessantenne, che oggi sull'Unità, pagina 21, indovinate che ti ha fatto. È anche un consigliere comunale a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. Il titolo dell'articolo è questo: fammi una lega. Un leghista regala slip osceni al sindaco donna del Partito Democratico. È successo appunto a Castel San Pietro Bologna. Un consigliere del Carroccio, tale Gino Volta, ha contestato molto la linea del sindaco Sara Brunori. E è andata in consiglio comunale e ha detto: questo è un pacco per te, caro sindaco, un pacco regalo. La Brunori, la sindaca, ha scartato l'omaggio e si è trovata tra le mani uno slip con stampata una figurina maschile in boxer e il fumetto "Fammi una lega". Il sindaco ha reagito malissimo. Qualcuno cercherà di minimizzare questo gesto come goliardico, ma come donna e come rappresentante della città e dello Stato sono profondamente offesa da questo atto molto volgare. Così ha detto il primo cittadino del Partito Democratico, Sara Brunori, che appunto insomma ha commentato così. I leghisti però non sembrano affatto pentiti, racconta l'Unità, rivendicano lo slip di sfida lanciato al sindaco. Si tratta di un gadget firmato Lega Nord che risale alla metà degli anni 90 e va a ruba tra i collezionisti, dicono quelli della Lega, tanto che Gino Volta e il consigliere provinciale del Carroccio Alessandro Marzocchi si sono fatti fotografare sorridenti con le mutande incriminate. Vabbè, goliardata o no, chi lo sa, fammi una lega. Pagina 21 dell'Unità. Vabbè. E allora la questione rifiuti davvero prende molte prime pagine dei giornali. Per Repubblica l'apertura è Napoli, l'intifada dei rifiuti, camion bruciati, decine di feriti. Per La Stampa rifiuti interviene il governo, rifiuti guerriglia a Terzigno per il Messaggero. Il Manifesto ha una foto degli scontri, il vulcano. Per l'Unità invece è il bidone. Il fatto: Berlusconi finisce nella discarica, questo è il titolo di apertura, ma veramente il più duro è Il Giornale: Napoli, pattumiera d'Italia. Questo è il titolo del giornale di Feltri. Allora, tra l'altro il governatore Caldoro della Campania fa un paio di interviste a Repubblica e alla Stampa. Repubblica, Concita Sannino, a pagina 4, dice: io come Bassolino sono vittima di un'emergenza che parte da lontano, sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, non mi illudo che siano finite le giornate nere, ma soprattutto la cosa più importante che dice Caldoro è: continuate a scrivere che questa discarica Terzigno va fatta, ma sarà sicura, moderna e priva di qualunque rischio per la salute dei cittadini. Al che Concita Sannino dice: beh, ma questo dovrebbe essere pacifico. Beh, ma certo, ma non lo è sempre stato nei territori campani. In alcune vaste zone del comune di Giugliano adesso dobbiamo per esempio intervenire con una bonifica di 50 milioni perché una vecchia discarica gestita da personaggi di Gomorra, da esponenti dei casalesi, aveva inquinato le falde acquifere. Poi Caldoro dice: smentisco le ricostruzioni di chi dice che questo è il fallimento del piano Berlusconi-Bertolaso. Loro avevano avviato tutti i passi necessari affinché si mettesse in moto una gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti. È stata comunque risolta un'emergenza dalla eccezionale gravità e avviato finalmente il termovalorizzatore di Acerra. Anche alla stampa Guido Ruotolo insomma dice più o meno le stesse cose. Stefano Caldoro: equilibrio fragile, un piccolo guaio e si rompe. I sindaci però devono capire che impianti come quello di Terzigno ce ne sono centinaia in Europa. Serve una soluzione drastica. Oggi il governo è atteso da un vertice, cioè il Consiglio dei Ministri, e poi si parlerà anche di questo. Come detto, il più duro è Vittorio Feltri in prima pagina, questo titolo molto molto forte: Napoli, pattumiera d'Italia. C'è anche l'editoriale di Vittorio Feltri che inizia così: alcuni anni fa un amico napoletano in visita a Milano mi invitò a pranzo e poiché la sua città in quel periodo era alle prese con montagne di rifiuti mi sembrò opportuno, doveroso chiedergli un'opinione in merito. Risposta: caro Vittorio, a me dei poveri non importa nulla. Spiegazione esauriente. Il problema immondizia, infatti, non riguarda le zone centrali, le più chic, dove tutto è in ordine e ben tenuto perché i signori sono signori e come tali pretendono di vivere, ma i quartieri popolati, noti al pubblico del cinema perché fanno da sfondo a numerosi film in cui la miseria è spettacolo. Insomma, dice Vittorio Feltri, la stratificazione della monnezza dimostra che il mio amico musicologo disse la verità: il pattume soffoca i poveri e sta alla larga dei ricchi. Vedere Napoli ridotta in due secoli da capitale europea della cultura a regno della sozzeria non aiuta a essere ottimisti. Qualora si trovasse subito il modo per dare una ripulita alla città, tra un po' lo sporco vincerebbe di nuovo e saremmo da capo. E poi Feltri dice: evidentemente tutti, le amministrazioni comunale, provinciale e regionale, sono rimasti inerti, non hanno combinato nulla, si ignora in quale modo abbiano investito i fondi assegnati dallo Stato per non seppellire i napoletani, quelli indigenti, si intende, sotto coltri di lerciume, zero differenziata, zero discariche, zero inceneritori. E nei turbini l'unica speranza è che spazzino via almeno gli amministratori incapaci, ma è improbabile che si liberino di chi li ha assunti per farli riposare. Insomma, molto duro Vittorio Feltri. Anche sul Corriere c'è un bell'articolo a pagina 3 di Marco Imarisio, uno dei tanti inviati che è a Terzigno e che ci rimarrà, immagino, per qualche giorno. Appiccia le Molotov tirate dai nonni. Tieni, appiccia e tira forte. Il ragazzo con la sciarpa nera sul volto lo ripete due volte. Appiccia, accendi, nonno. Il signor Nicola guarda perplesso l'oggetto che gli è stato messo in mano, un fiasco di vino pieno di benzina con uno straccio zuppo a fare da miccia, ci pensa qualche istante con la schiena schiacciata contro l'inferriata della farmacia per proteggersi dalle vampate di calore che provengono dai camion in fiamme, poi decide. Cortesemente, dice rivolto al ragazzo, me lo date voi l'accendino che io non fumo? 15:45 di un pomeriggio che Bosco Reale sembrava Baghdad. Quest'uomo di 72 anni dai baffi candidi, la camicia stirata, falegname in pensione dal 99, che poi racconterà tutto dei suoi nipotini, delle sue ultime vacanze con la nuora, lancia la prima bomba incendiaria della sua vita nell'abitacolo di un autocompattatore ancora intatto. L'espressione smarrita, un po' di vergogna, un po' di paura. Abbiamo sempre solo parlato, ma non è servito a nulla. Insomma, è anche questo un volto della protesta, certamente molto composita, anche fatta da persone normali che fino a ieri insomma non avevano mai fatto nessun gesto di quelli che invece vediamo purtroppo dalla TV. E anche questa notte è stata una nottata davvero di scontri e non c'è stato un solo camion che è riuscito a raggiungere la discarica per sversare i rifiuti, una delle due discariche, la seconda vogliono aprirla. La vicenda di Napoli e questa vicenda dei rifiuti, certo, si intreccia anche con quello che è la vicenda politica che riguarda Napoli. Da questo punto di vista devo andare in prima pagina del Foglio, perché a Napoli si vota le prossime primavera, le amministrative, E allora ecco che il Foglio fa un interessante articolo sulla scalata romana la scalata su Napoli. La scalata romana di Montezemolo parte da Napoli in primavera. Luca Cordero di Montezemolo sperimenterà a Napoli una propria morbida discesa in politica. La prossima primavera in città si vota e l'ex presidente di Confindustria con la Fondazione Italia Futura ha sondato diversi possibili candidati da sponsorizzare. Uno di questi è il patron di Ferrarelle, Carlo Pontecorvo, ma secondo altre fonti ben informate la candidatura più importante e più da sponsorizzare e da sostenere sarà quella di Giovanni Lettieri, imprenditore nel settore tessile, amico di Gianni Letta e Berlusconi, apprezzato dall'establishment di centro-sinistra e presidente dell'Unione Industriali Napoletani. Una notizia parzialmente smentita da ambienti vicino a Lettieri, ma confermata in ambienti politici e salottieri. E questa sarebbe la prima sfida per il Foglio di Ferrara per Montezemolo. D'altronde la gara per sostituire Rosa Russo Iervolino, fa sapere il Foglio, si annuncia interessante perché il PDL si sta orientando su chi? Sul ministro Mara Carfagna, anche se dicono che il ministro tema un po' la sfida e lo stesso Berlusconi di recente in privato ha detto «voglio troppo bene a Mara per darle una soma come questa sulle spalle». I sondaggi sono ottimi, ma insomma si sa poi in questi casi il rischio di una sconfitta, poi il rischio un po' di bruciarsi politicamente. Nel PD invece si pensa a un altro nome. Ieri l'ho visto per la prima volta spuntare sul Riformista. Udite, udite, Lucia Annunziata, ex presidente della RAI, attualmente il RAI. Insomma, il PD, Bersani, sfogliando i sondaggi, attribuirebbero all'ex presidente della RAI già un consenso al 58%. All'interno del Partito Democratico, 10 punti in più del candidato democratico Umberto Ranieri, 20 punti sopra Nicola Oddati, attuale assessore alla cultura di Napoli. Insomma, Lucia Annunziata potrebbe essere il nome per il Partito Democratico. Lei si smentisce un po', dice alla mia età non si cambia mestiere, sento fare il mio nome, di sicuro città come Napoli è una città che amo, dunque chissà, dice il Foglio, ma insomma il nome di Lucia Annunziata gira tra i papabili candidati per il Partito Democratico alla corsa a sindaco di Napoli. Oh, la politica invece nazionale si cimenta sul tema della giustizia su tutti i giornali, questo è il punto che trovate commentato oggi. La riforma della giustizia annunciata da Berlusconi e che in una prima bozza Alfano viene presentata oggi dai giornali, ci sono già i no di Fini. Ecco la riforma della giustizia, Liana Milella, pagina 6 di Repubblica, in tre fogli, anche fotografati e messi in pagina. Eccola, la legge di Angelino Alfano. Cosa prevede? Le carriere saranno separate di PM e giudici. Posizione costituzionale del giudice differenziata da quella del PM, il primo definito come potere dello Stato, il secondo come un ufficio regolato dalle leggi dell'ordinamento giudiziario. Poi assoluzioni inappellabili, cioè se uno viene assolto c'è l'inappellabile, in primo grado non si può ricorrere in appello. La polizia autonoma, nella formula anche la disponibilità della polizia giudiziaria sarà rimessa alle modalità stabilite dalla legge. I CSM saranno due, conterranno però molto meno dell'uno di adesso, ridotti a un ruolo burocratico e amministrativo. Il guardasigilli, in questo caso Alfano, ma insomma la figura del ministro di giustizia che si allarga perché riferirà annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale, sull'uso dei mezzi di indagine. E anche c'è l'elezione di alcuni magistrati, si tratta in realtà di magistrati onorari, e quindi ecco qua la nomina elettiva di magistrati onorari per le funzioni di PM, l'obolo pagato alla Lega, dice Liana Milella su Repubblica. Su queste posizioni ci sono i no di Fini, come Barbara Fiammeri sul Sole 24 Ore, pagina 9, spiega bene. Futura Libertà ha già bocciato i punti chiave della bozza: troppi laici nel CSM, troppi poteri al ministro, no al cambiamento delle funzioni del CSM, no a togliere la polizia giudiziaria dal controllo dei PM, no al rafforzamento dei poteri disciplinari rispettivi del ministro di giustizia. Questi principali no dei finiani già affidati a Giulia Bongiorno ieri, e dunque insomma su questo diciamo che si profila subito, come dire, uno scontro politico anche per Francesco Bei su Repubblica. Lo stop di Fini al testo Alfano, inaccettabili almeno 3 punti. Insomma, la questione è tutt'altro che risolta. Oh, sapete che non è TV, ma è diventato politica da giorni, è la vicenda, insomma, Saviano, Masi, ora si apre un nuovo fronte, Rai, vale a dire la citazione per danni di Berlusconi dopo la puntata di Report sulle ville di Antigua. Berlusconi sul Report, diffamato, chiedo i danni, una citazione per accertare la natura offensiva, diffamatoria della puntata di Report del 17 ottobre. L'avvocato è Fabio Lepri, in sede civile, chiede se ci siano responsabili dell'illecito. Milena Gabanelli fa una conversazione a pagina 5 del Corriere, si difende. Perché la causa civile? Perché così mi terrà a bagnomaria per chissà quanti anni. Se avessi avuto una querela, avrei avuto l'immediata possibilità di offrire un'ampia facoltà di prova di quanto è stato sostenuto. In questo modo, no. In più, una querela si risolve in tempo ragionevole, mentre le cause civili si sa che fine fanno. Insomma, Milena Gabanelli poi dice, poi lui può intentarmi qualsiasi causa e quando vuole. Io no, perché io non ho tutte le immunità che invece proteggono lui. Al che l'avvocato di Berlusconi, Fabio Lepri, ha detto, sì, è vero, è così, ma per un motivo molto molto semplice. La differenza è vero, il premier può citare me, ma io non posso citare lui, ha detto la Gabanelli. È vero, ha detto l'avvocato, ma il mio cliente non l'ha mai offesa, in maniera molto lapidaria. Poi la Gabanelli dice, domenica parleremo della manovra finanziaria. Ciò significa che Tremonti dovrà preoccuparsi? Chiede il Corriere. Gabanelli ride e non dice una parola di più. Insomma, nuovo fronte della TV, che c'è anche nella vicenda Saviano, Rai, le puntate di Fabio Fazio, che chissà se si faranno. Saviano in Rai, ecco il contratto, questo è Libero in prima pagina, ieri lo vedevo sventolare anche a Maurizio Belpietro da Anno Zero, da Santoro, e Franco Becchis, in questo caso, che racconta come le puntate di Fabio Fazio e Saviano costino in totale 2.816.000 euro per 4 puntate, insomma, perché si è contestato molto l'idea, quanto però insomma, ecco la scheda di proposta programma, quanto è il costo esterno editoriale, 2.400.000, il costo esterno di produzione 196.000, insomma, se vi volete cimentare un po' sulle cifre, ma il tema è questo, economico, o c'è qualcosa più sotto? Questa è la domanda. In ogni caso, ancora molto su TV, e anche Libero mette in prima pagina la vicenda di Berlusconi che fa causa a Report, mi ha diffamato su Antigua, chiedo i danni. Vicissitudini politiche continue per l'ex ministro Scajola, che oggi a pagina 13 del Corriere della Sera viene dato per indagato. Scajola indagato per il porto di Imperia, indagine della procura di Imperia sulla costruzione del nuovo porto turistico, oltre 1300 posti barca, arrivata a un punto di svolta. L'ex ministro delle attività produttive Scajola, nume tutelare dell'imperiese, è stato indagato in concorso con l'imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone, presidente di Acquamarcia, con l'accusa di avere aggirato le normative sulle appalti pubblici, contestazione che sarebbe quella di associazione per delinquere. Insomma, Erika Della Casa racconta di Scajola indagato per il porto di Imperia. La troviamo solo sul Corriere della Sera, anche se il Secolo XIX sta monitorando questa vicenda da tempo. Se vi volete cimentare ancora nella cronaca nera, oggi ci sono particolari davvero raccapriccianti su tutti i giornali, e parlo ovviamente del delitto di Avetrana. Perché? Perché tutti i giornali pubblicano praticamente il verbale dell'interrogatorio dello zio, che racconta come è stata uccisa Sara. Sara gridava, ho detto lasciala andare, e Sabrina no, voglio darle una lezione. Ecco il verbale della confessione di Michele. È il PM che parla. Chi porta Sara nel garage? Michè, l'ha portata Sabrina. E l'ha portata giù per verificare il fatto che io avevo messo la mano. Ah, perché avevi messo la mano sul sedere di Sara? Sì. A quel punto non ci ho visto più e l'ho legata. Ed è scoppiato un litigio? Sì. Cioè Sabrina non ci credeva, Sara invece diceva che era vero questo fatto? Sì. E quindi poi, quando è arrivata a casa, Sara ha visto prima Sabrina, quindi è passata dal cancelletto, è entrata e ha incontrato Sabrina, è così? Sì. Sara voleva venire nel garage o lei si rifiutava? No, si rifiutava. E come è stata portata Sara da Sabrina? L'ha portata malamente, con la forza, l'ha tirata. Sara voleva scendere nel garage, insomma, no. E che diceva? Lasciatemi stare, voglio tornare a casa. E quindi, e in quel momento non ci ho visto più. Sabrina l'ha bloccata. E Sabrina, quando ha detto questo, che reazione ha avuto? Si è arrabbiata con Sara perché le ha chiesto: è vero che c'è stata la mano sul sedere? E Michele, lo zio, dice sì. E allora si è arrabbiata con Sara per quello che aveva detto. Non so, le ha dato uno schiaffo, non mi ricordo. La teneva stretta. Sara gridava: lasciami andare, lasciatemi andare. A quel punto io le ho messo la corda attorno al collo. E hai stretto? Sì, ho stretto. E quanto hai stretto? Sarà stato 5 minuti. E quando hai stretto, Sabrina, dov'era? No, ha preso paura, lei ha lasciato tutto. Insomma, racconta davvero dettagliato, è il verbale, la confessione. Il concetto è: l'ho fatto ed è degenerata, volevamo darle una lezione, perché voleva andare in giro per il paese a dire che l'avevo molestata. E questo, insomma, ha scatenato il movente della furia. Tra l'altro, il Messaggero racconta anche un SMS, un nuovo SMS di Sabrina, vale a dire, insomma, la cugina di Sara, che è stata confermata il suo fermo in carcere. Un SMS in cui coinvolgerebbe addirittura la sorella Valentina: non dire nulla, se no metti nei casini papà. Il nuovo giallo, Nino Cirillo, lo racconta, è questo, cioè si profilerebbe davvero ogni giorno un allargamento dell'indagine, un'ombra su Valentina. Poi parliamo, non deve sapere niente né la zia né la mamma, stai zitta, non lo devono sapere, altrimenti parlano, quando torni ti racconto. Insomma, non dire nulla, se no metti nei casini papà. Questo sarebbe il nuovo fronte da aprirsi. Oh, voglio chiudere solo, visto che il nostro sondaggio è test antidroga in Rai, che chiede Giovanardi per i conduttori TV, che ne pensate? Vado a pagina 59 del Corriere, lo spinello fa dormire meglio. Copyright di Ornella Vanoni, ieri era a Un giorno da pecora su Radio 2. Ornella Vanoni, 76 anni, le notti insonni, cosa faccio? Qualche canna me la sono fatta. E poi, insomma, qualche canna, ma solo per dormire, non certo per vivere, fa bene. Lo spinello fa dormire meglio. Anche lei dovrebbe fare il test, non so, andrà a Sanremo, chi lo sa. Ornella Vanoni. Votate il sondaggio, ora diamo la linea al GR.